Compare Rospo di Villa Rospi. Rospo giaceva sul pavimento della cella. Piangeva, si lamentava e rifiutava il cibo. Ahimè, povero Rospo, infelice e abbandonato, singhiozzava. Devo dunque perdere ogni speranza di libertà. Dovete sapere che il carceriere aveva una figlia, una fanciulla dal cuore tenero. Un giorno andò da suo padre e gli disse: non posso più sopportare la vista di quell'infelice animale. Lo sai quanto amo le bestie. Voglio dargli da mangiare io stessa e fargli un po' di compagnia. Col passare dei giorni l'umore di Rospo migliorò e piano piano tornò ad essere quello di prima. Ma una mattina gli sembrò che la ragazza fosse distratta e non ascoltasse con la dovuta attenzione i suoi discorsi così spiritosi. Rospo, disse infine lei, ascoltami bene. Io ho una zia che fa la lavandaia. Su, via, la interruppe Rospo. Non te ne crucciare e non pensarci più. Anch'io ho diverse zie che meriterebbero di essere delle lavandaie. Stai calmo, Rospo, sto cercando di raccogliere le idee e tu mi confondi. Come dicevo, mia zia lava la biancheria di tutti i prigionieri del castello. Porta il bucato a casa il lunedì e lo riporta il venerdì sera. Oggi è giovedì, senti che cosa mi è venuto in mente. Se tu glielo chiedessi con gentilezza e le dessi qualche moneta d'oro, forse lei ti presterebbe i suoi vestiti e così potresti fuggire travestito da lavandaia. Fra l'altro, avete più o meno la stessa corporatura? Non le assomiglio affatto, sbuffò Rospo. Io sono molto elegante. Non crederai sul serio che compare Rospo di Villa Rospi possa andarsene in giro travestito da lavandaia. Con mille proteste, dopo un po', Rospo acconsentì. E così, la sera seguente, la ragazza condusse sua zia nella cella di Rospo e in cambio di qualche moneta d'oro la vecchia gli cedette il suo vestito di cotone, il grembiule, lo scialle e la cuffia. La ragazza, soffocando le risate, aiutò Rospo a vestirsi. Sei veramente il suo ritratto, gli disse. E ora, Rospo, addio e buona fortuna. Con le gambe che gli tremavano dalla paura, Rospo uscì dalla cella. Gli sembrarono ore i minuti che impiegò per attraversare i corridoi e i cortili della prigione, ma infine sentì che il grande portone si chiudeva alle sue spalle. Respirò profondamente l'aria fresca. Era libero. Si avviò velocemente verso le luci della città senza sapere che cosa fare e dove andare. Mentre stava camminando, vide in lontananza delle lucine verdi e rosse e sentì lo sbuffare di una locomotiva. Che fortuna, pensò. Una stazione ferroviaria è proprio quello che mi ci vuole. Si strinse nello scialle e continuò a camminare. Arrivò alla stazione e scoprì che c'era un treno in partenza per Villa Rospi. La fortuna mi assiste, si rallegrò dirigendosi alla biglietteria, ma si fermò come paralizzato ricordandosi di avere lasciato il suo portafogli nella giacca, dentro la cella. Disperato cominciò a passeggiare su e giù per la piattaforma davanti al treno, con le lacrime che gli colavano sul volto. La sua fuga forse era già stata scoperta, l'avrebbero cercato dappertutto, l'avrebbero riacciuffato, legato in catene e riportato a viva forza in prigione. Cosa fare? Intanto era arrivato vicino alla locomotiva. Ehi, nonnina, esclamò il macchinista, che le succede? Non sembra molto allegra. Oh, signore, disse Rospo piangendo, sono una povera lavandaia, infelice, perché ho perso i soldi e non posso pagare il biglietto e devo tornare a casa stasera. Oh, cosa farò? Oh, povera me. Un brutto guaio davvero, fece il macchinista. Oh, ha perso i soldi e non può tornare a casa. Sicuramente i nipotini staranno aspettando, no? Otto, singhiozzò Rospo. E sono affamati. Staranno giocando col fuoco, rovesciando i mobili e litigando fra loro. Oh, povera me, cosa posso fare? Beh, glielo dirò io che cosa deve fare. È una lavandaia, no? Beh, se mi laverà le camicie quando torna a casa, le darò io un passaggio sulla mia locomotiva. La disperazione di Rospo si tramutò in giubilo e lesto si infilò nella cabina della locomotiva. Naturalmente non aveva mai lavato una camicia in vita sua e non avrebbe saputo da che parte cominciare, ma pensò: quando arriverò a Villa Rospi, gli manderò dei soldi per pagarsi la lavatura delle camicie. Sarà lo stesso. Il capostazione alzò la bandierina, il macchinista fischiò e il treno uscì dalla stazione. La velocità aumentava e Rospo stava già pensando alla cena che lo aspettava a casa sua quando vide che il macchinista si sporgeva preoccupato dal finestrino. «Strano!» diceva. «Questo è l'ultimo treno della giornata, eppure io giurerei di sentire il rumore di una locomotiva dietro di noi che si avvicina a grande velocità, come se ci stesse inseguendo. Che strano!» Rospo si sentì gelare e si rincantucciò fra il carbone pensando disperatamente al da farsi. «Ci stanno raggiungendo!» gridò il macchinista. «E la locomotiva è carica di uomini che sembrano antichi carcerieri, con delle lunghe alabarde, e ci sono dei poliziotti con gli sfollagente in mano e altri che sembrano detective, con i revolver spianati, e tutti gridano: fermo, fermo!» Rospo cadde in ginocchio sul carbone e, congiungendo le zampe, gridò: «Mi salvi, mi salvi! Gentile e caro signor macchinista, io non sono la lavandaia che fingo di essere. Non ci sono bambini che mi aspettano a casa. Io sono compare Rospo, il noto simpatico compare Rospo di Villa Rospi. Sono appena fuggito dalla prigione, e se quella gente dell'altra locomotiva mi acchiappa, sarò di nuovo costretto in patene, a pane e acqua su un giaciglio di paglia. Oh, misero e infelice Rospo!» Il macchinista lo guardò severamente e disse: «Credo proprio che tu sia un Rospo malandrino, ma ora sei nei guai e io non ti tradirò. E poi non mi piace che i poliziotti vengano a dirmi che cosa devo fare quando sono sulla mia locomotiva. La vista di un animale in lacrime mi rende sempre tenero, perciò su con la vita, Rospo, farò del mio meglio e li batteremo!» Alimentarono la caldaia con grandi palate di carbone e la locomotiva filava a gran velocità, ma malgrado tutto gli inseguitori guadagnavano terreno. «Ci raggiungono! Rospo, c'è una sola cosa da fare ed è la tua unica possibilità di salvezza. Perciò ascoltami attentamente. Fra poco arriveremo a un tunnel molto lungo, al di là del quale c'è un bosco fittissimo. Quando avremo passato il tunnel, io frenerò più forte che posso e in quell'istante devi saltar giù e nasconderti nel bosco prima che loro arrivino e ti vedano. Poi ripartirò a tutta velocità e potranno inseguirmi quanto vogliono. Ora preparati a saltare, quando ti farò il segnale.» Il treno saettò sotto il tunnel mentre la locomotiva rombava e sferragliava. In un baleno arrivarono alla fine del tunnel. Il macchinista azionò i freni e Rospo si avvicinò al predellino. Mentre il treno rallentava, sentì il macchinista gridare: «Salta!» Rospo saltò, rotolò giù per la scarpata, si rialzò indenne, si tuffò nel bosco e si nascose. Facendo capolino tra gli alberi, vide il treno riprendere velocità e sparire fra sbuffi di fumo. Poi dal tunnel sbucò fischiando la locomotiva degli inseguitori, che gridavano tutti a gran voce: «Fermo! Fermo! Fermo!» Quando furono passati, Rospo non riuscì a trattenere una risata. Era la prima volta da quando era stato chiuso in prigione. Smise subito di ridere quando si rese conto che era tardi. Era buio e faceva freddo, e si trovava in un bosco sconosciuto, senza denaro, senza cibo e lontano dagli amici e da casa. Intirizzito e affamato, trovò rifugio nel cavo di un albero, dove si improvvisò un giaciglio di rami e foglie secche. Dopo un po' dormiva profondamente.